Dietro l'ultima porta c'è un vento, che dicono spazzi le strade, che dicono lasci di sale chi passa per caso e non vede quei lampi da dietro le tende, che tingono d'oro la noia di mani aggrappate ad un sogno che rende. Dietro l'ultima porta c'è un tempo che valuta più dimensioni, che dicono strappi l'orrore dagli occhi di un fiato spezzato. E tazza di fuoco e d'inchiostro, lasciando sfiorire le voci, annaffiando d'incenso le vene del vostro. E luce sarà dal cielo a grappoli, la pace verrà come una lama che affonda e sparpaglia marmaglia e bontà. Dietro l'ultima porta c'è un muro che muove le terre e i confini, che trova virtù nel silenzio di teste schiacciate sul nome, e l'ultimo bacio si vende a chi non dà fuori poltrona di nuovo passato e futuro presente. E luce sarà dal cielo in trappola, cadrà come una lama che affonda e sparpaglia marmaglia e bontà.